ti baia sette dall'angusto ritiro in cui la viaggia all'ira mi ha ristretto innanzi allo splendor delle mie mense. Cortese il Tamerlan, più che non pensi, mi si rende sospetto, benché sembri cortese il mio nemico. L'indovinasti, ho già risolto il modo che io finirti potrò. No! Non v'è colpo onde avvilirti, Bajazet, il cuore! A questo non resisti! Qual fia la fretta, intrepido l'attendo! Or lo saprai, ne vengo steia, e intenda del vincitore offeso il suo destino!